fatti suoi, io mi preoccupo di lei, non degli altri. Scusa, io sto parlando in generale, non sto parlando di te, di nessuno. Ho capito quello, adesso cioè, io mi preoccupo di me, non di chi si va a generarsi, ma quello che fanno gli altri, gli animali ce li pagheranno loro. Ma quello se sembra di dubbio. Se uno sbaglia, si chiudi, non rispetta uno stop, rispetta uno stop, si paga la macchina che ha rovinato, normale, no? Ma non vede niente che fa fare consigli, i potenti sono pronti, stanno col cellulare, stanno che gli avrei fatto la testa, guarda, ne fanno tutti rimanere, io giro per sciarpare, ma penso che sia anche quello dove giri tu a produttore, se ne vengo di una maniera di mia corona. Ma il problema lo sai qual è? Che poi le colpe di queste persone te le paghi tu e te le paghi tu con l'assicurazione maggiorata, nel senso che se tu vai a guardare a seconda della città in cui ti trovi le assicurazioni costano diversamente. Ad esempio un ragazzo che prende la patente con la ha appena preso la patente a Sassari paga di assicurazione meno di quanto paga un napoletano e un motivo c'è. Questo vuole il brodino di mano. Ciao vai, cosa c'è? Avanti. Ebriaco. Vedi, mi piace il brodo, non ho capito in che senso. No, proprio il brodo, no. Mi piace più il borsetta rossa. Ho capito anche piace un corno, ma... Sì, troppa. fatto una gruppetti, che fanno lavorare male. Pensavo che non c'era più questa cosa. Cioè, pensavo che stavo andando a sparire questa tradizione, invece no. Sento, sono, la maggior parte sono persone che fanno la promessa, magari hanno qualche uomo malato in casa, fanno la promessa, e se guarisce, per dire, vanno ogni anno, come ci sono come anche quei gruppetti di ragazzi, ma quest'anno non li ho visto, che cantano in sassarese, bevono birra, vino e cose si imbriagheggiano, e quelli vanno solo per divertirsi, con radione tutto un volume. Invece quest'anno non ce n'erano di questi, ho visto più facce un bestanche, quello ci mette imbarrati dalla stanchezza. Ma comunque è andato tutto bene, grazie a Dio, mi avevo portato solo una persona che... è una signora che aveva i piedi, che cioè non ce la faceva più, abbiamo fatto un passaggio noi col mezzo fuori strada. Ah, vabbè, avete fatto bene. Ma cazzo, ti metti in ciabatte a fare queste camminate a tubo? A parte che era stato fatto al ginocchio, e devo tornare lo stesso, se mi vedevo in tutta la che ero grido, con la braccia che ha avuto, le ho cambiato la rotula. Ma sei cercato di... come te ne sei giunta in ovvio? E allora comincia a star, vai. Sono assenato come fa a parlare di luce. Probabilmente io l'ho ammirato da una certa parte perché c'è la fede, perché ce l'ha fatto anche se era contro il suo volere, nel senso che mi vengono i dolori al ginocchio e cose, però l'ha fatto lo stesso. Da quel punto di vista lì l'ammiro, eh. Chissà che sia veramente così, mi chiedo sempre, ma sarà veramente così che fanno una promessa o lo fanno solo per scendere e basta? Dicono che sia così, ma io non so cosa dire. Perché la fede. Capito? Quando tornate a casa stasera, date uno schiaffo al vostro bambino e ditegli, questo è da parte di Antonio Grosse. Alla farmacia te l'ho fatto, no? Lasciamo i bambini in macchina, andiamo in discoteca. Ecco a voi, Antonio Grosse. Chi la vuole fare, si andava, a me sinceramente lo ribadisco come ti ho detto ieri, quando io lo ritengo che sia fare una camminata un po' pericolosa lì, e quindi non ci penserei mai di andare, di fare a saputo d'ora da quel punto lì, da quella strada. È molto pericolosa, specialmente nelle curve di San Giovanni. Lì, guarda, non c'è posto per camminare, sono molto ristretti dalla strada, le macchine passano a razzo. Infatti discostavamo lui, una corsia era impegnata dalle macchine nostre proprio per mandare in corsia di sorpasso le altre macchine. Se scappa. Sì, già, scusi. Infatti, l'ho sempre pensata così, si fa perché si fa, però se non ci fosse stata per me era stato... Cioè, sarei stato più contento, la verità, ed è troppo rischioso, Tanti Pierpaolo, buonasera. Buonasera Gianni, a me ha fatto entrare, mi sono conosciuto. Io mo ti ho sentito. Ciao Magallo, buonasera Gianni. Buonasera. Ciao. cosa, la radio, come se incarica tutta la notte, e non funziona, voglio che mi sia non ti sento. Guarda, non si accendeva manco la lucetta, forse perché l'ho lasciata troppo e va prima alla carica intelligente, magari fa tutta la carica, poi si scarica di nuovo e così comincia la carica, io penso che sia così. No, te lo so dire, no. Però si non l'ha caricato per niente. Come va? Come va acceso il 21? Ormai sbaglio siete nel 20. E siamo nel 20 perché io se ti togli si ho rinato il canale, non c'è nessuno, mi sono fermato qua, tutto lì. Ah, ecco. Perché va acceso il 21? Con la coppia di amici siamo scesi a San Gavino. sono arrivato lì che se c'è una donna in terra non riuscivano a sollevarla per caricarla in macchina. Tra l'altro gli ho dato una mano io, l'abbiamo caricata e la figlia non sapeva mai dove era portato soccorso, a portare perché era di Sassari. E tu non la portare a Sassari, guarda che portato soccorso, tu non c'è nessuno che può fare le strade, accompagnarla, cavolo, una macchina c'è un bel lontano, se no l'avrei accompagnata io. E niente, nessuno si è pensato a fare di strada per fargli vedere dove era portato soccorso, questa dice io non ne capisco nulla, il portatore se non la conosco. Sono sceso per la festa con mia madre, purtroppo si è sentita male, ci ho fatto dei ranchi e si è fatto dentro. E quindi l'avevo portata? Quindi io ho detto, signora, facciamo una cosa, le chiamo l'ambulanza, che ci pensa l'ambulanza a portare. No, no, no, no, poi si spaventa, mia madre no, la porto io a Sassari, se l'ha fatta caricare in macchina e l'ha portata a Sassari. Ah, ecco, che portata che ci ha portata. Dice che gli hanno ceduto le gambe completamente, ha detto che non se ne sentiva più. Sì, così, ma anziana era? È anziana, non è anziana, avrò 77 anni. Magari già state male, dice che era in cima, se ne sei camminato, la puoi sentire male. No, ma questa qui era oggi, mi dice, non è che ha fatto la camminata alla Sassari, no? Magari i vicini le mancarebbe, avrà passeggiato, là. Ah, no, ho fatto la passeggiata pure. No, vabbè, io ho perso un po' la connessione, ieri notte siamo stati sino alle 6 di mattina. Poi ho dormito sino alle 2:30 oggi. 2:30? E poi stasera sono andato, mi sono lavato la macchina e siamo scesi a Polo Ottobre. Tutti quanti noi cucchi siamo scesi, stavamo scendendo, stavo per entrare dove sono le bancarelle e niente, siamo mai vista signora, capito? Ah, ecco, adesso ho capito, sì, ok, va bene. Vabbè, vai, ti saluto io già, vai, siamo un po' notte, poi lo vuoi per domani. Fa tutto contraccambiato al centro, avanti, grotto. Cambia, tu sai cosa sto aggiustando io per l'ennesima volta? Ti stai aggiustando? Sto aggiustando di nuovo quella macchina per lo zucchero filato, se mai l'abbiamo, ma mai l'avessi comprata. Ah, si abbara noi, no, perché non ti adatta a me? Oh, adesso sembra una lavatrice, comunque ben sentito anche per Paolo, mi sono dimenticato di salutarlo. Paga, poi si è trattenuto poco, là. Poco, là. Andare. Mi ha fatto piacere che sia andato a salutare, ma lui è sui doveri, quindi purtroppo si è dovuto allontanare. Avanti, Alessio. Se non risponde, Giuseppe. La supposta, non è stata Giuseppe. No, che altro la tazzipina, già. Paga, poi si prende di gusto. maledetto. Guarda che c'è la polagina più grande della tachipirina. Quella ti serve a te già, la supposta. E non è di febbre, avanti, sento. Faccio la febbre. Ti senti un vibratore e fai così e te la vai passare. Oggi avete pure anche tre, sia popolare, eh? Vero? E poi altri richiusi di voi. Cosa è? Perché recche? Paga, fa percussione. Per carità. E sono anche in allerta, perché c'è anche mia madre con la febbre, dunque devo stare attento. Paga, pa. E alta ce l'avete? Ma poi c'è la tachipirina. Quasi 38. Madre? Mia madre è un po' di scesa, quasi, che l'aveva quasi 39, adesso che un po' ho fatto prendere la medicina, la tachipirina, e l'ho misurata, è scesa un po'. E se non si vede che è troppo alta, chiami il dottore. Il dottore, il magari c'è un piatto arido, non lo so. Ti dovevo spiegarcelo, c'è un virus in giro che prende lo stomaco, che prende la nausea, vomiti e via dicendo. Cioè, sto anche io così, sono nauseato, ti faceva svoltare, eccetera, eccetera, stavo sempre così. Anche a me, ma dai, lo stesso già, a vomiti, mal di stomaco, sciolta, cazzo, tipo un sapore di uovo solo. Sì, vomiti, capito, quella roba lì. E dunque adesso abbiamo preso quella la forma, la femminina, preso l'ultimo, capito. Allora, dai, io vi saluto, dai, buonanotte a tutti, a Gianni, Antonio e anche a Sergio, dai. Ciao, buon a tutti. Ciao Antonio, ci sentiamo, buonanotte, buon lavoro per domani. Avanti, Antonio Grosso e poi Freira. Ciao Antonio Bombolo, ben sentito, buon 144, ci sentiamo alla prossima. Avanti Alessio, se sei rientrato, se no riprende Gianni. Ti prendo io. Alessio, si sta facendo qualche bionda. Ma sempre elettrolitico biondo, Oppure sei drumido. Dai, ci tu Giuseppe. Mi sa che è venuta la piocco. E già due sere che fa così, due sere che si assenta di colpo, poi boh, non rientra più. Questo domani lo chiediamo, cosa è successo. Poi è venuto qualche corso, anche a lui. Chiusa, boh, comunque sei tu un dirigente così, Giuseppe. Già, lo sai. Poi, sono, ho preso sabato, ho preso il bambino. L'ho portato a pranzo e tutto qua, e poi la sera ce l'ho riportato, ma l'ho portato a Calderone, un braccio già Sarola è di Migliavari e lui deve entrare a lavorare. Ma a lavorare domani non lo so se ci vado pure K. Vabbè, cioè si può andare, non ci va, pazienza, voglio di vivere. Mi ha attaccato male, con la influenza, contagiare pure quello là, non credo proprio. Magari domani ci sarà passata, perché non è una questione magari di colpo d'aria che ti dura un po' di giorni. C'è una questione proprio di virus, una volta che si andrà che c'è un virus, si appoggia. Capito, capito, vabbè. Oggi non ho mangiato, ho provato stasera a fare un'altra cosa, già da lì ho preso una pizza, abbiamo preso un'altra pizza, però sai io, quando sto bene non sarà di nuovo una pizza, stasera proprio niente, vero. Non si farà, guarda, mi è capitato anche a me col panino l'altro giorno. Eravamo in sede, stavo facendo dei lavori, stavo piazzando delle radio, delle macchine, con Giuseppe, ci abbiamo ordinato una pizza gigante, forse abbiamo esagerato, non aveva quasi mica, era assato, eravamo. Forse è quello, ma non ci scende, non ci scende. E poi, sai, più bello, a forza di ricordo di acqua, come io bevevo l'acqua, cazzo subito, dovevo andare in bagno a pompare. Che pagappa, Come dice i liquidi è così, quando c'hai qualche virus l'onfio. Grosso, come si è messo con questa macchina dello zucchero? Come la stai ritoccando e riprendendo in mano? Pensavo lo stessi chiedendo come sono messa a diarrea, perché giomai anche a me una settimana fa mi ha preso la stessa cosa, però è durata pochissimo, tipo uno o due giorni. La sto riprendendo in mano perché era un giocattolo, la sto trasformando in una lavatrice. Ma ascolta, ma lui che frequenza trasmette? trasmettete. Poi 143 mega. 143, non avevate la 43 come, o 45, qual era la frequenza? 43. Quindi siete in 43, non 143. Sì, io stavo sbagliando io. Anche perché 143 era dematuriale. Io ho sbagliato dicendo 43 mega. Era la nuova frequenza CB che volevano mettere come al posto della 27, che poi non è mai riuscita, non è mai andata avanti. Hanno venduto un paio di apparati, dico a chi utilizzava la casa, e poi non ha mai preso, non è mai decollata come frequenza, se non per uso così di ambulante civile. Ma voi siete iscritti anche alla protezione civile? Ma siete gente importante. Protezione civile nazionale. Volevo chiedere, ma è poi questa cosa della cena del pranzo, lo organizziamo o no? Per me sono d'accordo, non c'è problema. Quando decidete di farlo io non ho nessun problema. Pensavo che questo sabato non me l'ho scordato, ma c'è il matrimonio di mia nipote, quindi non ci posso venire. Se voi aspettate la prossima, la organizziamo da lunedì la situazione, così almeno arrivati, però ci dobbiamo vedere, perché non mi va a me di organizzare la frequenza, questa cosa qua, ci dobbiamo vedere, un giorno ci diamo un appuntamento, ci vediamo tutti insieme, organizziamo, ci conosciamo e organizziamo la situazione. Organizzeremo qui. Perché qua c'è sempre le orecchie discrete che ascoltano, quindi non mi va di parlarne qua. Beh, anche quelle sono buone accette se vengono, l'importante è che paghino pure. Vabbè, dipende dai punti di vista. Ragione anche tu. E comunque sì, ci troviamo tutti a casa di Alessio. Bene, ci invita a cena così per conoscerci, poi la organizziamo. Allora hai voglia di prenderti il cagotto anche tu, perché se cucina lui, figurati cosa ti prepara. Cazzarola. Ci sarà la fidanzata che cucina. Tu? Ci sarà. Scusate un attimino, io sto finendo questa cosa, se no non riesco a rimontarla, dai. Ma tu non l'avevi già finita quella cosa, perché l'hai riaperta? Perché si è bruciato tutto, un casino. È un giocattolo, mi cosa pensi che sia. Ogni tre o quattro cose lo devi ripulire, se no si incrosta. Ecco perché l'hai parato così poco. Adesso vi spiego. Più spende, meno spende. Chi meno spende, più spende. Esatto. E comunque li faceva bene finché li faceva, eh. Adesso se riesco a pulirla, boh. Va bene, pulisci. Avanti. Chi era rimasto? Ma come si chiama lì? No, avanti, chi è rimasto, eh? Certo, vabbè dai, io vi saluto a tutti e vi auguro un buon 144, un buon trapacco per domani e ci sentiamo tutte le prossime, dai, ciao. Ah, Giuseppe, ciao, auguri pronta guarigione, Lola, siete che fa male, dai. E buona giornata per domani, ciao, avanti io. Mi sa che siamo rimasti in pochi a ballare la Ligalli, comunque ben sentito, buon QRT, buon 144, ci sentiamo le prossime, Giuseppe. Ebbene sì, caro, questo serve per fare lo zucchero filato, però ne ha fatto, se ne ha fatto 10 anche troppo, considerando che l'ho pagata a 29 euro, mi è costato a 3 euro la pantafoga. Se invece quanto costa, io sto all'euro 50. Oh, ma adesso vedrai che lo aggiusto e faccio concorrenza pure. Vabbè, già, mi sa che si fa paura. Scherzando e ridendo è la mezza. Dai, io QRT per me, che me ne vado in 144 al lavoro, che domani mattina ho cosa da fare. Ben sentito, ben ascoltato e ci sentiamo le prossime. Comunque non tralasciamo questa cosa, lo organizziamo, che non sia questo sabato, ci mettiamo d'accordo, invece ci incontriamo per un caffetto di quanti e ci mettiamo d'accordo. Io non c'è problema. Allo sbidere, ci sentiamo, buona giornata per domani, dai. Anche a te, buon trabacco, alle prossime, ciao.